Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Penserete che sia anch'io un romantico, ma vi sbagliate. Vi sto riferendo le mie semplici impressioni su una storia di giovani, un'avventura piena di strane inquietudini in cui mi sono imbattuto. Osservai con interesse l'andamento della sua, diciamo pure, buona sorte. Ella era un'innamorata gelosa, ma perché fosse gelosa e di che non saprei dirvelo. In ciò erano sue complici la terra, la gente e le foreste, che la sorvegliavano con attenzione, con un'aria di segretezza, di mistero, di possesso assoluto, e per così dire senza appello. Egli era prigioniero della stessa libertà che gli veniva dal suo potere, ed ella, pur pronta ad essergli schiava devota, custodiva inflessibilmente la sua conquista, come se il conservarla fosse stato un compito immane. Lo stesso Tambi Tam, che seguì i nostri viaggi alle calcagna del suo signore bianco, con la testa eretta, truculento e carico d'armi, con un giannizzero, con tanto di crissa, ascia e lancia, oltre il fucile di Jim. Persino Tambi Tam si permetteva di assumere l'aria del guardiano spietato, come un arcigno e devoto carceriere pronto a dare la vita per il suo prigioniero. La sera, quando restavamo alzati fino a tardi, si vedeva la sua forma silenziosa e indistinta passare e ripassare sotto la veranda, senza farsi sentire. Altre volte, alzando il capo, scorgevo all'improvviso, nell'ombra, la sua sagoma eretta e immobile. E credo che neppure la ragazza andasse a dormire finché non ci separavamo per la notte. Più di una volta, dalla finestra della mia stanza, vidi lei e Jim uscire insieme, senza far rumore, e affacciarsi alla rozza balaustra. Due bianche figure vicinissime, il braccio di lui intorno alla vita di lei, la testa di lei appoggiata alla spalla di lui. Il loro chiacchiericcio sommesso arrivava fino a me tenero, penetrante, con una nota di calma e tristezza nel silenzio della notte, come una preghiera solitaria pronunciata in due tonalità diverse. Più tardi, girandomi nel letto sotto la zanzariera, avrei giurato di aver udito un leggero rumore, un tenue respiro, un cauto schiarirsi della gola. E capivo che Tambi Tam si aggirava ancora per casa, benché avesse ottenuto, con il favore del signore bianco, una casa all'interno della cinta fortificata e dopo aver preso moglie fosse stato da poco allietato dalla nascita di un figlio, credo che almeno durante la mia permanenza abbia dormito ogni notte sulla veranda. Era difficile indurre alla conversazione questo gregario cupo e fedele. Lo stesso Jim riceveva risposte secche e brevi, date quasi protestando. Con i suoi modi sembrava voler dire che il parlare non era affar suo. Il discorso più lungo che gli sentì fare spontaneamente fu una mattina, quando tendendo improvvisamente la mano verso il cortile disse, indicando Cornelius, «Ecco venire il Nazareno». Non credo che si stesse rivolgendo a me, sebbene fossi lì al suo fianco. Il suo scopo sembrava piuttosto quello di risvegliare l'attenzione indignata dell'universo. Alcune allusioni ai cani e l'odore dell'arrosto che subito dopo gli sentii fare a mezza bocca mi colpirono come straordinariamente felici. Il largo cortile quadrato era sotto un sole torrido e Cornelius, pur immerso in quella luce intensa, lo stava attraversando con passo strisciante, con un inesprimibile effetto di clandestinità, di aria furtiva. Faceva venire in mente tutto ciò che è malsano. Il fatto che potesse camminare liberamente in quel luogo era una prova dell'assurda noncuranza di Jim o del suo assoluto disprezzo per quell'uomo, il quale aveva avuto una parte dubbia, per non dir peggio, in un certo episodio che si sarebbe potuto concludere tragicamente per lui. Di fatto esso si era tradotto in un ulteriore aumento del prestigio di Jim, ma tutto pareva tornare a sua maggior gloria. Per ironia della sorte, egli, che un tempo era stato così sensibile ad essa, pareva conquistarla come per magia. Thank you. Dovete sapere che aveva lasciato la residenza di Doramin subito dopo il suo arrivo, fin troppo presto, in realtà, per la propria sicurezza, e naturalmente molto tempo prima della battaglia. In questo era spinto da un senso del dovere. Non era forse lì, disse, per badare agli affari di Stein? A questo fine, e trascurando ogni normale prudenza, attraversò il fiume e si stabilì da Cornelius. Come altri recano l'impronta esteriore della persona generosa, eminente o venerabile, lui portava su di sé, in modo evidente, il marchio della meschinità. Era l'elemento della sua natura che permeava ogni suo atto, ogni sua passione, ogni sua emozione. Abietta era la sua rabbia, abietto il suo sorriso, abietta la sua mestizia. La sua cortesia e la sua indignazione erano parimenti meschine. Era inevitabile che la sua posizione fosse estremamente spiacevole, ma dovette pensare che poteva portargli dei vantaggi. Jim mi disse di essere stato ricevuto dapprima con abiette dimostrazioni di grande amicizia. Sembrava che non riuscisse a contenersi dalla gioia, disse Jim disgustato. Ogni mattina mi correva incontro a stringermi entrambe le mani, accidenti a lui, ma non capivo mai se ci sarebbe stato da mangiare. Se riuscivo a fare 3 pasti in 2 giorni, mi consideravo molto fortunato, e con tutto ciò mi fece firmare una nota di $10 a settimana. Cercò in ogni modo di darmi ad intendere che il signor Stein gli doveva del denaro per la sua attività commerciale degli ultimi 3 anni, ma i libri contabili erano tutti a pezzi e alcuni non si trovavano. Tentò vagamente di attribuirne la colpa alla sua defunta moglie. Infame mascalzone. Alla fine dovetti proibirgli di menzionarne persino il nome. Fece piangere Gemma. Il peggio era che non potevo fare a meno di pensare che in ogni caso non giovavo né a Stein né a me stesso. Ah, furono tremende tutte quelle 6 settimane. Aggiunse poi che non sapeva proprio che cosa lo avesse fatto rimanere, ma naturalmente possiamo capirlo. Aveva una grande simpatia per la povera e inerme fanciulla alla mercé di quel mascalzone spregevole vigliacco. Sembra che Cornelius le rendesse la vita impossibile, astenendosi dal picchiarla solo, credo, perché gliene mancava il coraggio. Pretendeva di essere chiamato padre. «E trattato con rispetto!» urlava agitandole sul viso quei suoi pugnetti giallognoli. «Io sono un uomo rispettabile, mentre tu chi sei? Dimmi, che sei? Credi che sia disposto a tirare su i figli di qualcun altro senza che mi trattino con rispetto? Dovresti essere grata di quello che faccio per te. Andiamo, rispondimi! Ora ti sistemo io!» E allora cominciava a offendere la memoria della morte, finché la ragazza non fuggiva, tenendosi la testa fra le mani. Egli l'inseguiva per la casa e fra le baracche, finché non la stringeva in un angolo, dove ella cadeva in ginocchio, turandosi le orecchie, mentre lui, in piedi a una certa distanza, l'investiva alle spalle con un torrente di luride ingiurie che proseguivano senza tregua per mezz'ora. Qualche volta, tuttavia, ella gli teneva testa con un'aria sprezzante, fissandolo in silenzio, con il volto scuro e contratto, e rispondendo di tanto in tanto con 1 o 2 parole che lo facevano sobbalzare e contorcere, come se fosse stato morsicato. Jim mi disse che quelle scenate erano orribili. Era davvero strano imbattersi in fatti di questo genere in mezzo alla giungla, ed era spaventoso a ben pensarci che una situazione di una crudeltà così sottile durasse da tanto tempo. Il rispettabile Cornelius, i malesi lo chiamavano Inchinelius, con una smorfia molto significativa, era un uomo molto deluso. Non so che cosa si fosse aspettato sposando quella donna, ma evidentemente la libertà di rubare le merci della compagnia commerciale di Stein, di appropriarsene, di disporne a suo piacimento per molti anni. Stein non mancò di tenere ben rifornito il magazzino finché ebbe la possibilità di far arrivare lì le sue navi, non gli sembravano una contropartita sufficiente al sacrificio del suo nome onorato. Thank you. Nel frattempo, avvertiva che contro di lui si addensavano oscuri pericoli. Per due volte, Doramin gli aveva mandato un servitore fidato per avvertirlo seriamente che non avrebbe potuto far nulla per la sua sicurezza se non si fosse deciso a riattraversare il fiume e a vivere presso i bugi, come all'inizio. Persone di ogni condizione lo andavano a trovare, spesso nel cuore della notte, per avvisarlo di trame di gente che voleva assassinarlo. Lo avrebbero avvelenato, lo avrebbero pugnalato nel casotto del bagno. Si preparavano congiure per sparargli da una barca sul fiume. Ciascuno di questi informatori si professava suo grande amico. Ce n'era abbastanza, mi disse, da far perdere il sonno a chiunque. Qualcosa del genere era certamente possibile, anzi estremamente probabile, ma quei continui ammonimenti gli davano solo il senso di un incessante e segreto complottare da ogni lato, tutti intorno a lui. Un piano perfetto per far perdere la tranquillità anche all'uomo dai nervi più saldi. Finalmente una sera lo stesso Cornelius, in tutta segretezza e facendo mostra di grande preoccupazione, gli svelò solennemente, con voce mielata, un suo progettino grazie al quale per $100 o anche per 80, ma sì, facciamo 80, lui, Cornelius, gli avrebbe procurato un uomo fidato che lo avrebbe portato al di là del fiume, al sicuro. Non c'era altra soluzione ormai, se gli premeva la vita. Che cosa sono $80? Una sciocchezza, una somma insignificante. Mentre lui, Cornelius, che in quel paese era condannato a restare, rischiava certamente la vita con questa prova di devozione al giovane amico del signor Stein. La vista di quelle smorfie disgustose, mi disse Jim, era intollerabile. Si strappava i capelli, si batteva il petto, si dondolava premendosi lo stomaco con le mani e finse persino di piangere. Il suo sangue ricada sul suo capo. Squittì infine, precipitandosi fuori. Si sentiva il cervello in subbuglio, ma fu proprio quella notte che maturò il piano per battere Sheriff Ali. Ci aveva pensato nei momenti lasciati liberi dall'impegno di venire a capo degli affari di Stein, ma l'idea, mi disse, gli balenò all'improvviso. Riusciva a vedere, in un certo senso, i cannoni in posizione sulla cima del colle. Restando lì sdraiato, fu assalito da una vampata di calore e da una grande inquietudine. Era ormai escluso che gli riuscisse di addormentarsi. Balzò in piedi e uscì scalzo sulla veranda. Camminando in silenzio si imbatté nella ragazza, immobile contro la parete come se stesse di sentinella. Jim era in un tale stato che non fu sorpreso di vederla, né di sentirle chiedere in un sussurro preoccupato dove potesse essere Cornelius. Le rispose semplicemente che non lo sapeva. Ella diede un lieve gemito e scrutò nel campong. Era tutto molto tranquillo. Jim era così preso dalla sua nuova idea, ne era così pieno, che non poté trattenersi dal rivelarlo subito alla fanciulla. Ella ascoltò battendo leggermente le mani e gli bisbigliò dolcemente la sua ammirazione, ma era evidente che per tutto quel tempo era rimasta allerta. Apparve allora Cornelius, sbucato da qualche parte, e avendo percepito la presenza di Jim, barcollò lateralmente come se fosse stato colpito da una pallottola e si fermò in piedi immobile nell'oscurità. Infine avanzò cautamente, come un gatto sospettoso. «C'erano lì dei pescatori, con il pesce», disse con voce tremula. «A vendere il pesce, capisce?» Saranno state le 2 del mattino, proprio l'ora più adatta per la compravendita di pesce. Jim tuttavia ascoltò quella spiegazione senza fare commenti e senza neppure riflettervi. La sua mente era assorbita da altri pensieri e inoltre non aveva udito né visto nulla. Si limitò a rispondere con un «Oh!» distratto. E dopo aver bevuto un sorso d'acqua da una brocca che era lì e aver lasciato Cornelius in preda a un'inspiegabile emozione che lo spingeva a stringere con entrambe le braccia la tarlata ringhiera della veranda come se si sentisse mancare le gambe, rientrò e si sdraiò sulla stuoia a pensare. Poco dopo sentì dei passi furtivi. Si arrestarono. Una voce tremante bisbigliò al di là della parete. «Dorme?» «No, che cosa c'è?» chiese vivacemente. Fuori si sentì allora un trambusto improvviso, come se l'altro avesse sobbalzato per la risposta. Quindi, tutto fu tranquillo. Estremamente irritato, Jim uscì d'impeto e scorse Cornelius fuggire con un gridolino lungo la veranda fino agli scalini, dove si appoggiò al corrimano rotto. Molto perplesso, Jim gli chiese ad alta voce che diavolo volesse. «Ha riflettuto su quello che le ho detto?» gli chiese Cornelius, parlando con difficoltà, come un uomo scosso da brividi di febbre. «No!» urlò Jim infuriato. «Non l'ho fatto e non lo farò. Ho intenzione di vivere qui, a Patusan!» «Lei qui morirà!» rispose Cornelius, sempre in preda a violenti tremiti e con una voce da moribondo. Tutta quella scena era così assurda e urtante che Jim non sapeva se essere divertito o infuriato. «Non prima di aver visto schiattar lei, può scommetterci!» gridò esasperato ma ancora pronto a riderci su. In tono semiserio, eccitato, capite, dai propri pensieri, continuò a gridare. «Nulla mi può toccare, neanche le vostre maledette congiure!» Lo spettrale Cornelius, che gli stava davanti a una certa distanza, gli era parso in quel momento l'odiosa personificazione di tutte le contrarietà e difficoltà che aveva trovato sul suo cammino. Allora si lasciò andare. Da diversi giorni aveva i nervi tesi e gli lanciò addosso un torrente di ingiurie. Lo chiamò manigoldo, bugiardo, squallido mascalzone. Si scatenò. Ciò che infine lo fece tacere, disse, fu il silenzio. Un silenzio assoluto e mortale. Di quell'indistinta figura laggiù, che piegata in due sulla ringhiera, sembrava pendere senza vita, su un'immobilità irreale. Tornò in sé, e arrestandosi all'improvviso si meravigliò di se stesso. Per un po' rimase ad osservare. Non un suono, non un movimento. proprio come se quel tipo fosse morto, mentre io facevo tutto quel chiasso, disse. Si era così vergognato di quello che aveva fatto che corse dentro senza aggiungere una sola parola e si buttò di nuovo sulla stuoia. Quello sfogo doveva avergli fatto bene, perché si addormentò e dormì tutta la notte come un bambino. Erano settimane che non riposava così. Ma io non ho dormito, interruppe la fanciulla, con un gomito sul tavolo e la guancia appoggiata alla mano. Io ho fatto la guardia. Ebbe un lampo in quei suoi grandi occhi che girò leggermente, quindi fissò su di me. Potete immaginare con quanto interesse ascoltassi quel racconto. 24 ore più tardi si intuì che quei particolari avevano una certa importanza. La mattina Cornelius non fece alcuna allusione agli eventi della notte. «Suppongo che vorrà tornare alla mia umile casa», mormorò imbronciato, avvicinandosi col suo passo furtivo, proprio mentre Jim saliva sulla canoa per andare al campong di Doramin. Jim si limitò ad annuire senza guardarlo. «Lì si divertirà, senza dubbio», aggiunse l'altro con tono acido. Jim trascorse la giornata con il vecchio Nakoda, caldeggiando la necessità di un'azione vigorosa davanti ai principali esponenti della comunità Bugi, che erano stati chiamati per una grande assemblea. Ricordava con piacere di aver parlato con grande abilità ed eloquenza. «Feci di tutto per infondere in loro un po' di coraggio», disse. L'ultima scorreria di Sheriff Ali aveva colpito la periferia del villaggio e alcune donne della città erano state rapite e portate dentro la palizzata. Il giorno prima alcuni emissari di Sheriff Ali erano scesi nella piazza del mercato a pavoneggiarsi altezzosamente nei loro mantelli bianchi e a vantare l'amicizia del Rajà per il loro signore. L'avere indotto i Bugi a prendere irrevocabilmente l'iniziativa e l'essersene assunto la responsabilità l'avevano reso così euforico che nella sua felicità si propose di essere cortese con Cornelius. «Ma questi a sua volta divenne così smodatamente gioviale», disse Jim, «che non si poteva non essere nauseati dagli squittii di quelle false risate, dai suoi ammiccamenti e contorcimenti, da quegli improvvisi scatti ad afferrarsi il mento per poi abbassare la testa con gli occhi sbarrati e puntati sul tavolo». La ragazza non si fece vedere e Jim si ritirò presto. Quando si alzò ad augurare la buonanotte, Cornelius balzò in piedi rovesciando la sedia e si chinò di botto come per raccogliere qualcosa che gli era caduto. La sua voce, che ricambiava la buonanotte, arrivò velata da sotto il tavolo. Jim fu sorpreso nel vederlo riemergere con la bocca spalancata e uno sguardo fisso impaurito. Si afferrava al bordo. «Che cosa c'è? Non sta bene?» gli chiese Jim. «Sì, sì, sì. Una tremenda colica allo stomaco», disse l'altro. E secondo Jim diceva la verità. Era almeno un segno abietto, in considerazione di ciò che sarebbe avvenuto, di un'insensibilità ancora incompleta, di cui bisogna dargli atto. Thank you. Christian Jansante ha letto Lord Jim di Joseph Conrad. Riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.